L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la Repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per 20 anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore. O vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Sentono un veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti. Sono già il completo, la storia ci ha insegnato che l'Italia... Allora, caro Parenzo, c'è un rapper che si chiama Fedez, di cui stiamo ascoltando l'inno al Movimento 5 Stelle, il quale Fedez, per caso, è anche un giudice di un noto programma che si chiama X Factor, una gara di giovani talenti che va in onda su Sky. Questi sono i fatti. Questo ragazzo, questa è la cronaca pura, questo ragazzo, il giovane Fedez, ha fatto, come vi dicevo prima, un inno per il Movimento 5 Stelle in cui si cita anche Napolitano. Avete sentito dove sono i nastri, eccetera eccetera. Ora io voglio dire una cosa a Fedez: non si prenda troppo sul serio, critica Napolitano, va bene tutto, lo possono criticare tutti, però insomma, non bisogna prendersi troppo sul serio. Della trattativa non sa una mazza lui e non so una mazza io, ma questa è una parentesi che non c'entra niente. Ma giustissima, sì. Ci sono due deputati però, signori miei, due deputati del Partito Democratico, i quali dovrebbero occuparsi di altro. Il signor Gelli, sì, come anche lui di Toscano, non credo che sia apparentato col signor Gelli, spero di no, perché sennò succede un casino. Verrà accusato di essere parente di Gelli, eccetera eccetera. Federico Gelli ed Ernesto Magorno, questi due signori, credo anche due sconosciuti, però non c'è niente di male. Fino a oggi sì. Cosiddetti peones, no? I quali hanno chiamato Sky. Si sono interessati. Signor Murdoch hanno chiamato. Non lo so chi hanno chiamato. Hanno fatto comunicati, non so. Per dire che. Sono il signor Gelli. Cioè Murdoch, ma guardi veramente. L'immagine di Sky potrebbe. L'indipendenza di Sky potrebbe essere compromessa dal fatto che un giudice di X Factor, nel suo tempo libero, compone un inno per il Movimento 5 Stelle in cui accusa Napolitano. Cioè, voi vi rendete conto o no? Cioè, il signor Fedez può fare quello che vuole. Questi due deputati del Partito Democratico non si devono interessare a quello che fa un rapper nella vita. Non è un problema fondamentale. No, ma stai a sentire anche un altro che è un commentatore di Repubblica molto conosciuto, che si chiama Giovanni Valentini. Valentini sono proprio in televisione. È uno di quelli che vorrebbe fare chiudere questa baracca, tra l'altro. Anche questa Valentini. Baracca, la zanzara, no? Per gli scherzi, eccetera. Uno di quelli che bastona la zanzara, la praia. È una vergogna, cioè. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Signor Valentini parla di vilipendio da parte di Fedez nei confronti di Napolitano. Ti giuro, mi pare un po' eccessivo. Senti. Vagamente eccessivo. Senti. Se ci sono gli estremi del vilipendio, posto che il vilipendio oggi per la legge italiana è un reato, va applicato a questo inno, all'autore di questo inno, come a Storace. Repubblica non vedente, non si spiega. Capito? Cioè, se ci sono gli estremi di vilipendio da parte di Fedez, vilipendio nei confronti di Napolitano, io non ci posso credere. Non ci posso che qualcuno pensi di accusare un rapper di vilipendio nei confronti del capo dello Stato, primo, e che ci siano deputati della Repubblica che si occupano di un signor rapper, il quale, perché da mica perché voglio sminuire i rapper, fa bene il suo mestiere. Certo, poi lasciamo, per uno può considerare le accuse a Napolitano una una cosa ridicola, forse lui si sente troppo importante, dice anche di essere il cantore di una generazione, un'intervista al Corriere della Sera, è lampante che sono la voce di una... Non sei la voce di una generazione, caro Fede, non sei, però puoi dire quello che ti pare, soprattutto non devi essere accusato, li ha chiamati fascisti, anche questa è esagerazione, fascisti, questi due signori sono... non avevano niente da fare, hanno fatto sta roba qui, cioè... fascisti, fascismo è un'altra cosa, Di Battista addirittura, poi tutto diventa, le cose più farsesche diventano delle cose incredibili, qui si dà una importanza enorme. Senti Di Battista, dici i metodi del PD, di questi, no, no, di questi due, del PD. Beh, senti, un cantante di 26 anni per loro non può scrivere l'inno del Movimento 5 Stelle, temono il fatto che le nuove generazioni libere mentalmente e giovani cantanti assumano determinate posizioni, e questo è gravissimo, ripeto, e me ne assumo le responsabilità, sono metodi che utilizzavano i regimi e utilizzavano le Brigate Rosse. Grazie. Se è contento lei. E poi si passa all'eccesso, ovviamente. Le Brigate Rosse, siccome due deputati rosse, isolati peraltro dal resto, perché ci sono anche esponenti del Partito Democratico che hanno solidarizzato con Fedez, tra l'altro, siccome ci sono due signori che hanno detto una cazzata e hanno chiamato Sky per far cacciare, dice Fedez, il rapper dal programma, diventa le BR Di Battista. Voglio dire una cosa su Galan, sollecitato nei giorni scorsi da alcuni amici che mi hanno detto: ah, tu hai sempre appoggiato Galan. Io non ho appoggiato nessuno, non ho appoggiato Galan, è venuto qui da noi a dire come la pensava. Galan è innocente fino a sentenza definitiva, sentenza definitiva che però probabilmente non ci sarà, cioè non ci sarà la classica procedura al tribunale primo, secondo, perché c'è un patto, ha chiesto il patteggiamento, è uscito dalla galera l'altro giorno, lui dice: non sono colpevole, sono innocente, però non potevo sopportare di rimanere in galera e volevo vedere la mia figlia piccola di 7 anni. Da noi, l'ultima, è stata una delle sue ultime interviste, peraltro, prima di andare in carcere. Vero, da noi vero. Pronunciava queste parole. Io lo dico a tutti i miei concittadini, elettori, quelli che ci ascoltano. Io non ho mai preso nella mia vita né una lira né un euro per fare o non fare qualcosa. Mai. Allora io dico una cosa forte a Galan, io capisco la carcerazione, la figlia, poi ci sono anche motivi processuali, magari i tuoi avvocati si sono accorti che c'era una montagna di prove da cui non potevi uscire, non lo so, non si potrà mai sapere ovviamente, no? Però secondo me bisognava anche avere i coglioni, capisco la galera, io non l'ho mai provato per cui non lo so, bisognava avere i coglioni, se uno si sente innocente come lui diceva da noi, di andare fino in fondo, sì. Se uno pensa di essere innocente, altri 3-4 mesi di carcere sì, se sono innocente non ho preso un euro, bisogna avere i coglioni di fare un mazzo così ai giudici che ti accusano. Abbiamo con noi però, graditissimo ritorno qui alla Zanzara, beh, un uomo, anzi non è lui al centro dell'attenzione, ma è la figlia, cioè Paolo Guzzanti, buonasera. Buonasera. Ciao Paolo, come stai? Grande. Grazie, è passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo. Senti Paolo, grande, voglio andare subito al punto però. Tua figlia... hai visto il film intanto, la trattativa? Appunto, il film di tua figlia, l'hai visto o no? Sì, sì, l'ho visto. Ti è piaciuto? No, ho delle obiezioni, un film è, diciamo, formalmente molto bello, è fatto molto bene con questa idea degli attori che si vestono intanto interpretano i personaggi. Secondo me ha delle lacune, io poi ho delle mie idee fondate e trovo lacune. Che il film avrebbe potuto essere molto più dirompente. Cioè secondo te la tesi che su cui si regge è sbagliata? Ma insomma io trovo che qui tutto mi sembra che ci sia più professionismo dell'antimafia in giro, come diceva Sciascia, che della mi sembra un po' tutta quasi della fuffa. Io quando tratto questo argomento dico sempre: scusate, qualcuno mi spiega perché esattamente è stato ucciso Falcone? Perché la mafia non dà gli Oscar alla carriera, non è mai successo. Per cui anche tua figlia ti sembra che appartenga a tutta. Ma lei resta in certi binari che sono del professionismo dell'antimafia. Non voglio dire che è un film consolatorio, però certo manca di quella esplosività che forse avrebbe potuto avere. Senti, però la critica benevola. Sì, certo, vabbè, sei pur sano. Sei da papà. Sono il padre, io e mia figlia ci siamo azzuffati e capigliati. Però adesso siete in buoni rapporti. Punto, no? Perché poi se nasce sta cosa, il padre che difende la figlia, la figlia che difende. Noi, no, però hai detto una cosa forte già, pur dicendo ho visto il film, diciamo mi è piaciuto così, però dici, beh, il professionismo dell'antimafia resta una cosa, un tratto fondamentale anche di questa roba qui. Questo hai detto. Sì, poi sai, l'Italia è un paese che tratta con la mafia da quando è nata. Non dimentichiamo che il sud dell'Italia è stato consegnato ai sabaudi, sì, dalla mafia siciliana e poi dalla camorra. Per cui non c'è niente di male a trattare, dici tu. E quindi no, non è che c'è tutto il male, ma scoprire adesso che è stata fatta una trattativa in quel momento, in quegli anni, con le terre, questo mi sembra di una ipocrisia enorme. La mafia è stata usata per... Cioè si tratta da sempre tra mafia e Stato. Purtroppo questo è un paese che è marcio di mafia, sì, e isolare un frammento ingrandendolo dicendo ecco è lì il male mi sembra ingenuo, quindi commette un errore. Senti, però sotto accusa è soprattutto una frase pronunciata in realtà scritta su Twitter da tua figlia ieri. La frase è questa, lo sai perfettamente, anche se no, non lo sai, ieri sono stato investito dai tweet senza sapere nulla, esattamente che ha detto. La frase è, lei ha detto esprimo solidarietà, solidarietà, adesso non me la ricordo bene, ma poi la pronuncerai tu, ha espresso solidarietà nei confronti di Rina e Bagarella, due stragisti, due signori che sai benissimo chi sono, perché insomma non è stato consentito loro di partecipare all'udienza in cui c'è Napolitano, chiaro? Sono dei cittadini anche loro, insomma, questa è la sua posizione. E dunque? Sì, sì, sono dei cittadini anche loro, però ha espresso solidarietà. È una cazzata, sì o no? Sì. Sì, è una cazzata di quelle mediatiche o anche il momento in cui uno gli scappa il piede dalla frizione, però voglio aggiungere che l'idea che Rina e Bagarella siano il top delle decisioni della mafia, il vertice del male, Satana e Belzebù, questa è un'altra cazzata. Perché io sono sicuro del fatto che dietro le stragi ci sia dell'altro che nessuno ha avuto veramente la voglia. Vabbè, di però lasciamo, restiamo un attimo sul tweet. Il tweet è una scivolata, una cazzata, cioè anche la Maria il fatto che ne stiamo parlando dimostra anche che è un fatto mediatico importante. Forse non credo che Sabina l'abbia fatto per rilanciare meglio il suo film, però certamente ci costringe, vi costringe a parlarne. Appunto, da questo punto di vista è stata molto furba. Non lo so, perché non do patente. Non ci hai parlato? Non ci hai parlato? No. Solidarietà a Rina e Bagarella, che capisco può suonare molto forte, me ne rendo conto, e i traditori nelle istituzioni ci fanno più schifo dei mafiosi. Che i traditori all'interno delle istituzioni in generale facciano più schifo dei mafiosi, quello io sono anche d'accordo, cioè chi tradisce lo Stato fa schifo più dei mafiosi, in questo Sabina Guzzanti ha ragione. Però ecco, solidarietà. Paolo, perfino Maria Falcone dice che è stata una cosa vergognosa, adesso al di là delle critiche che ci sono state da tutte le parti, ma esprimere solidarietà nei confronti di due stragisti, è vero, la provocazione, il film, ma insomma qualcuno dice addirittura, chi è che l'ha detto, è una roba da poveretti. Ma insomma, io non voglio partecipare a questo banchetto, e non perché sia Sabina sia mia figlia, perché Sabina è una signora di oltre 50 anni che non ha bisogno di papino suo che la difende, quindi parlo di lei come parlerei papino di chiunque altro. Sì, no, c'è questa cosa stucchevole, padre, la figlia, una cosa che rompe molto le palle. Perché siete due grandi combattenti, Paolino, questa è la ragione, perché comunque siete gente di carattere, capito? Sabina lo è certamente. Allora? Dunque, io però mi dispiace, Anna Falcone, pure Maria, lei, Maria Falcone, anche lei parla per un'indignazione che viene anche da una cosa che la tocca personalmente e profondamente, quindi tutto il rispetto. Però mi sembra al tempo stesso come un'indignazione di maniera, non lamenta che sia un'indignazione ipocrita, per carità, sarà sincerissimo, non dubito, ma è prevedibile, siamo nel banale, ripeto, se fossero state fatte tutte le indagini per scoprire la verità. Cioè tu dici che l'indignazione di tua figlia ha un suo fondamento. Ecco. L'indignazione di mia figlia è un enzima che provoca o può provocare dei processi che finora non sono avvenuti nella quindi realtà. È positiva alla fine, cioè smuove le acque. Lo vedremo, potrebbe essere positiva, non dico che è. Però scusa, tua figlia dice anche che Berlusconi è ancora prigioniero della mafia e questa. Ma sì, difatti Sabina secondo me cade in questo ripetitivismo, anche quello canalizzato, per cui è dell'Utri, mangano i cavalli, che se la mafia, se il problema della mafia e dello Stato fosse tutto là, beh, l'avremmo risolto. Beh, ma tu non gli dici niente su questa cosa di Berlusconi, lei dice che è ancora prigioniero della mafia, non per non parlare ma di no, quello. Ma questo è minchiata. Lo Stato non era prigioniero prima e non è prigioniero adesso. Queste sono quelle cose che però fanno parte di quell'odioso comune sentire, per cui guai se tu non dici che Berlusconi era dietro. Allora diglielo tu che Dell'Utri, se lo pensi, diglielo tu che Dell'Utri è vittima di un reato inesistente, perché io so che tu lo pensi questa roba qua. Diglielo a tua figlia. No, io di Dell'Utri devo dire che non penso, penso che i motivi che, per cui lo hanno condannato non reggano, che se fosse stato processato in un paese diverso dall'Italia non sarebbe stato condannato. Io sono, anche qui non faccio il difensore di Dell'Utri, ma io mi sono ascoltato, ho visto e ho scartabellato le cose, sono delle chiacchiere e quindi senti, ma come si fa a arrestare? Come si... mondo, no, certo, come si fa a arrestare, scusami Paolo, in buoni rapporti quando ci sono queste con una figlia, quando ci sono queste differenze da questo punto di vista così profonde? Perché poi ci sono delle differenze profonde. Cioè, ma se uno pensa che Berlusconi fa parte della mafia e c'è un padre che è stato pur critico su varie questioni per anni con Berlusconi, come si fa ancora a rimanere ad avere rapporti? Non posso che rispondere che è una domanda che dovreste fare a Sabina, non a me. Io capisco che Sabina conceda corrivamente un modo di sentire, di esprimere che fa parte di un canale. Lei è un'espressione del suo tempo e io sono un'espressione di un altro tempo. E quindi lei, chiedetela a lei. Certo, c'è un elemento che l'hai messo molto bene in chiaro, no? Cioè, come puoi tu pensare che quello è non ne parlate, questa può essere una soluzione. Famiglia Natale. No, ne parliamo, però c'è molto di implicito, diciamo, io non voglio mettermi a parlare, però tanto per saziare la fame, i rapporti sono eccellenti, ottimi. Ci vogliamo un gran bene, ci stimiamo a vicenda. E non parlate di Berlusconi, non parliamo, ma non perché stiamo lì tutti arrampicati sulla sedia e guai a noi se parliamo. Ognuno di noi conosce le proprie differenze. Sabina spesso mi chiede le mie opinioni sugli argomenti. E si schifa un po'. Si schifa un po'. Un po' si incazza. No, nemmeno. Cioè, non con me, non lo so. Ma papà, ma che dici, papà? Dobbiamo chiudere, ragazzi. No, grazie Paolo. No, che non è stato, non è semplice per te raccontare queste cose. Un abbraccio, a presto, ciao. Ma qual è la maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta di Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta di Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi. Dalla minoranza del Partito Democratico, ancora battagliera, ne sentiremo due dalla minoranza del Partito Democratico. Mi dà quasi fastidio pronunciare questo nome, non so perché, sono ormai allergico a queste cose, lo so, è un mio difetto ormai. Minoranza del PD, non ce la faccio, la minoranza del PD. Comunque vabbè, siccome esiste una minoranza del PD, sentiamo Bersani. Però Bersani ieri sera da Santoro, battuto da Nicola Porro, peraltro che aveva Renzi. Ma tu, certo. Senti questa cosa. I liberali non mi dicano no, ma è troppo difficile. No, ma sentiamo questo, sentiamo. Però mi si conceda, e lo dico ai liberali, liberisti, eccetera, di non venirmi a dire che la disuguaglianza crea quella movida per cui tutta la marea si alza. le barche si alzano tutte, poi se uno è un po' più grosso diventa sempre più grosso e l'altro resta piccolo, vabbè, ma è un problema secondo, perché le barche possono affondare tutte a un certo punto. Diciamo che dopo questa frase si capisce che non è un caso la sconfitta, chiamiamola così, elettorale di Bersani, diciamo, non è un caso. Le grandi non metafore è un caso, di Bersani. Non è un caso. Detto con tutto il rispetto, per le autorità politiche, civili, militari del Partito Democratico, però, ragazzi, la comunicazione serve a qualcosa, Vabbè, poi dice anche che senza il finanziamento pubblico ai partiti io divento pazzo. Io su questo lo so, purtroppo sono d'accordo con lui. Ci sarà il pensiero unico, non su questo. Certo. Il pensiero unico senza il finanziamento pubblico, cioè sarà deciso tutto dai grandi finanziatori, dai banchieri, non so da chi. Mamma mia, mamma mia. Se noi poi invece decidiamo che non ci sono i partiti, che non c'è il finanziamento pubblico, quelli sono ben contenti di pagarla loro la politica, Poi li fanno decidere quel che vogliono. E poi ci stupiamo che c'è il pensiero unico. Se c'è un grumo di ricchezza così micidiale nel mondo. Ah, poi c'è Fassina. Quello del Fassina chi, diceva Renzi, no? Fassina chi? Non tutti i politici sono uguali. Io sono abbonato all'ATAC, cioè prendo la metro. L'autobus. Ma è normale che uno prenda la metro? No, però non è normale tra i politici. Ma come no? È normale. Innanzitutto vorrei dire che non tutti i politici sono uguali. Sottoscritto l'abbonamento annuale all'ATAC, prendo la metro e l'autobus ogni mattina. Quindi so come la metro alle 8:30 di mattina, so come la metro A, soprattutto quando si arriva a Termini. Tipi da Zanzara. Mauro da Roma, vai. Sì, buonasera. Sì. Ce l'ho il tempo per esprimere il mio pensiero? Certo che ce l'hai. Io sono esterrefatto più che altro dall'editore di Radio 24. Sì, ridaglio con sta cosa. Uff, che fastidio, vai su. Oh, l'editore di Radio 24, sono esterrefatto. Dai, forza, vai, Mauro, fammi. Io sono esterrefatto dall'editore di Radio 24, non ho detto voglio protestare. Vai con la dichiarazione. Ho detto la mia opinione, sono esterrefatto. Io sono una persona che ascolta Radio Nazionali. Sì. Ascoltavo Radio 24 come riferimento. Mi ricordo che questo programma è nato sotto Sant'Almassi. Vabbè, ma non ce ne frega niente adesso, cioè siamo nel 2014, e capito? Ho smesso di ascoltarlo ora che ci stai tu. Oh, benissimo. Ascolto con piacere Roberta Giordano. Bene, non me ne frega una mazza di quello che dici, di chi ascolti, non me ne frega una mazza, però lo puoi dire tranquillamente. Disgraziatamente, provo a sentire se è cambiato qualcosa, se riaccendo la radio sento parlare di orgasmo vaginale o orgasmo clitoride. Sì, ne parlano tutti i giornali di orgasmo vaginale, di orgasmo clitorideo. Non ti interessa la cosa? Non ti interessa l'argomento? Una trasmissione di Radio 24 della Confindustria con uno che dalla mattina alla sera cazzava. Che me ne frega, vaffanculo, merda, cazzo, vedi, lo so dire pure io, ma mi vergogno. Brava, vergognati, bravo, vergognati. Preferirai un mondo migliore. Bene. Il migliore è rosa, fiori, profumo, vita, no cazzo, culo, merda. Rosa, profumi, vita. Migliorati, puoi essere una persona. Senti, amico mio, ma lasciamolo parlare, che è fantastico, lasciamolo parlare, dai. La solidarietà per le solidarietà. Cioè in tutto il mondo, e tu ti stai cercando di nascondere dietro un dito. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse una lavatina di capo a te ti farebbe bene. Hai finito? Ma se vuoi continua. Hai finito? Continua, vai. Devo andare a prendere servizio, purtroppo. Quanto tempo ho? A nanna. Vai a nanna, ciao. Tipi da Zanzara. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. A Genova esondano 4 fiumi, la città ancora in ginocchio dopo l'alluvione di 3 anni fa, una vittima, allerta fino a mezzanotte, scuole chiuse. Scoppia la polemica per il mancato allarme, il sindaco Doria, nessuno ci ha avvertiti, la rabbia dei cittadini di nuovo alle prese con il fango. Renzi nelle aziende eccellenti dell'Emilia, via ostacoli e l'Italia crescerà, se no sarà colpa nostra. Napolitano, bene il Jobs Act, ma è ancora molto da fare. Cominciata la kermesse 5 Stelle al Circo Massimo Grillo, non c'è una questione di leadership, nessun problema con Pizzarotti, ma non c'è solo lui. Migliaia di studenti in piazza in 60 città per il diritto allo studio, lo slogan La grande bellezza siamo noi, no alla riforma della scuola e al Jobs Act. Ebola, l'Europa valuta l'invio di militari in Africa per circoscrivere l'infezione, allarme rientrato per la donna sotto osservazione a Parigi. Nobel per la pace alla giovane pakistana che difende il diritto all'istruzione femminile, all'attivista indiano Satyarthi che combatte lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo Vittorio Feltri, dopo 4 anni il matrimonio diventa noioso. Secondo me ci è andato anche largo, per quello che mi riguarda. Dice anche meno, forse. Dopo 4 anni il matrimonio diventa noioso. È andato molto, molto largo, diciamo la verità. Non possiamo non pensare che ci sia un'assoluta parità nel desiderio di evadere dal matrimonio che diventa sempre noioso per quasi tutti, non per tutti. Dopo 3-4 anni si comincia a desiderare l'evasione. Tanto si presenta Feltri dicendo io di corna posso parlare tranquillamente, no? Ma chi è posso... che dice posso fare una verifica? Vespa, porta a porta, dedicato ai tradimenti. Tradimenti. Poi dice di tradire soprattutto con i messaggini. Con i messaggini, senti. Il messaggino oltretutto può anche diventare eccitante, cioè uno strumento di seduzione che non credo possa essere paragonato a internet, che invece è freddo, è glaciale e non ti consente neanche di esercitare un minimo di arte della parola. Mi dicono che devo essere una persona migliore, l'ascoltatore da Roma, devi essere una persona migliore, che ha detto pure Mauro da Roma che devo parlare di che cosa? Di fiori, no, di fiori, profumi, vita. Invece migliore, sangue merda. Se puoi, migliorati, la possibilità c'è. Fabio Udine. Sì, buonasera. Dimmi. Io chiamavo in merito il ragazzo di 14 anni di Napoli. Sì. Come sempre si sente parlare di Napoli. Ora io Non è che è successo a Bergamo Alta, può succedere anche a Bergamo Alta, però è successo a Napoli, è al quartiere Pianura. Punto. Io questo dico. Nei primi anni 90 in Sicilia è successo tra i Rom, quindi il signor Parenzo che ascolti, che tra i Rom hanno fatto un gioco tipo una burla come questa e hanno messo nel deretano la pistola delle compresse e hanno ammassato uno. Vabbè, allora, ma infatti loro. Dunque? Succedono tra i Rom e a Napoli. Sì, vabbè, ma succedono ovunque, no? Rom, dunque, Napoli. Dunque, io ho semplicemente detto, anzi, voglio ampliare quello che ho detto. E quello che sentiamo dai membri della famiglia del tizio che ha messo questa specie di pompa che non è nel sedere, un ragazzino, peraltro, che ha 24 anni, nel insomma, sedere adesso di un ragazzino semplicemente perché era obeso, almeno così nelle ricostruzioni. Allora, 24 anni, le reazioni della famiglia sono l'esempio classico del fatto che non è che la famiglia è sempre un bene, no? Bisogna tutelare la famiglia. Spesso la famiglia nasconde le cose più perverse, le cose più atroci, le solidarietà più ridicole. Io questo volevo dire. Ma questo ovunque, però, tutte assolutamente, le latitudini. Assolutamente, ovunque, ovunque. In alcune zone, diciamo, i vincoli familiari sono molto, molto più stretti in alcune comunità. Le solidarietà sono molto più accentuate, ma non voglio dire che sia necessariamente un male. Però io sento delle cronache da tutta Italia, poi se la prendono con me semplicemente perché dico che in alcune zone d'Italia i vincoli familiari sono molto più stretti. Francesco Terni. Ciao Giuseppe. Dimmi. Senti Giuseppe, volevo una piccola informazione. Io ho tanti difetti perché ho 72 anni e quindi un po' rimbambito. Sì. Sono un radicale, sono un italiano e sono un meridionale. Radicale, sì. Radicale, italiano, meridionale. Sei andato a scuola, penso di sì. Sì. Hai studiato il latino? Sì, ma non mi ricordo più nulla, guarda. Però ti ricordi quella frasetta che dice odi et amo? Odi et amo. Beh sì, certo, almeno quello sì. Ma chi l'ha scritta? Ma non me lo ricordo, non me lo ricordo, lo posso dire, ha detto Catullo, benissimo. Nei tuoi confronti ho una specie di sentimento simile. Ma è una cosa abbastanza comune, amico mio. Sì, sì, io non dirò niente di originale, guarda. Io, come dice un famoso giornalista, aborro la tua trasmissione che sento soltanto la notte e allora? Come orrenda non riesco a sentirla tutta intera. Ma non mi soffermerò su questo in quanto... Sì, però aspetta un secondo, aspetta. S'approcio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che ce passo fa, sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà, oppure vogliamo davvero... Questa settimana la Zanzara, scontro titanico tra il presidente dell'Arcigay Flavio Romani, che a Bruxelles avvicina chiedendogli perché parli sempre male degli omosessuali. Il presidente dell'Arcigay Flavio Romani e il leghista Gianluca Buonanno. Romani: non l'ho né inseguito né minacciato. A un certo punto ero all'interno del Parlamento Europeo, ho visto che è passato Buonanno e gli sono andato dietro per dirgli un paio di cose, niente di più. Buonanno. Ma certo, ma è palese, no? Che era tutto premeditato. È palese perché dopo 5 minuti che è successo questa cosa è già uscito un Twitter di un eurodeputato del PD che le ha portate lì una cinquantina di loro. Dopodiché però non può dopo 5 minuti scrivere già così, era già tutto predisposto. La prima cosa che mi ha detto: io faccio quello che voglio e dico quello che mi pare, tu sei un coglione, sei un frocio, sei un finocchio di merda, se sei frocio non è colpa mia, vattene... e roba del genere, anche io gli ribattevo. Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Neanche gli davo, cioè, quando mi ha detto subito sono presidente dell'Arcigay, ho detto vabbè, niente, senti, usami. Poi questo qui però istigava e cercava così, alla fine gli ho detto senti, se sei frocio non è un problema mio. Cioè, a me dà l'idea, e lo voglio ribadire qua, io non ho niente contro gli omosessuali. Nessuno sa dire esattamente cosa sia. Il voto forse non lo conosce bene, o forse è in qualche modo stuzzicato dal suo modo di fare. Io lo definisco razzista anche, forse quello. Lo definisco un troglodita, è semplicemente una persona che non riesce ad arrivare al chilo, si dice dalle mie parti. Amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non l'ho fatto più. Più, sono brutto e cattivo. E poi per concludere posso dire: dai, sculacciami pure, non lo faccio più. No, io vorrei risentire questa roba qua, perché Buonanno a un certo punto dice: la prossima volta che mi avvicina Romani, il presidente dell'Arcigay o qualcuno della loro organizzazione, io gli rispondo e fa la voce da effeminato. Che volendo è un'altra presa per il culo, perché non no, è che... se io toglierei il volendo, è una chiave. Voglio vedere se ha il coraggio di farlo. Lui dovrebbe andare, se avesse veramente coraggio, alla sede dell'Arcigay o quando ci sono queste feste, a fare l'effeminato. Vada lì a fare ciao, vediamo come esce. Vada lì. Adesso dalla prossima volta tutti quelli che mi verranno a cercare, che siano lesbiche, gay, così, dico: amore, ti chiedo scusa, amore mio, però non l'ho fatto più. Più, sono brutto e cattivo. E poi per concludere posso dire: dai, sculacciami pure, non lo faccio più. Vabbè, comunque ragazzi, io non ci posso credere che oggi due deputati, lo ripeto per l'ennesima volta, l'ho detto un'ora fa, due deputati del Partito Democratico si siano interessati, abbiano chiamato Sky per censurare, secondo Fedez, per far cacciare da X Factor Fedez, semplicemente perché ha fatto l'inno dei 5 Stelle in cui attacca Napolitano. Non ci posso credere, i due signori del Partito Democratico. Vabbè, andiamo in provincia di Agrigento, Franco. Anzi no, con chi eravamo prima? Con Francesco, dai, Francesco, aspetta Franco, fermo lì. Francesco, dimmi, dai. Francesco, Luciani, dai, forza, chiudi. Mi hai abbandonato. Ma no, sto qui. Catullo. Nessuno ti abbandona, Luciani, Catullo. Allora ti dicevo, non parlerò male della tua trasmissione in quanto ti hanno coperto di contumelie, ma tu, che non sei un uomo, tra l'altro, non sei molto... non sei molto erudito, non è che hai una gran cultura. Mi ricordo che non conoscevi niente su Umberto D. Sì. Ti ricordi qualche certo, cosa? Certo, assolutamente. Sei abbastanza ignorante. Ah, tra l'altro, ma due deputati tutti, mi segnalano che i due deputati del PD, stavolta li hai mandati tu in Parlamento. Siccome tu mi accusi sempre, hai mandato questi io, 5 Stelle. No, questo no, è vero, no, questo caro, è vero. No, no, io no, sono io, radicale, no, tu, Francesco. Parenzo. Io li ho mandati. Sì, questo è vero, certo. Allora, sì, senti, questi ma li ho mandati. La faccenda, quando tu litighi con Parenzo, ma litighi per scherzo. No, no, guarda. No, davvero. Davvero litighiamo. Come una pezza da piede, non penso. Beh, che ogni tanto è vero, io ho un carattere pessimo, per cui tu tendo. Tu sei un cinico. Io sono abbastanza cinico, però insomma, Francesco, alla fine. Se tu te la cavi con un vaffa, con ma che me frega, come fa la gente a litigare con te? È impossibile. No, ma non è vero, si può litigare. Io ti ammiro, guarda. Perché dici? Ti ammiro. Perché mi ammiri? Tu metti anche in evidenza le contraddizioni di noi italiani, quanto noi italiani, io e te compreso, siamo ipocriti. Io poi sono un meridionale, ti do ragione per quanto riguarda l'assetto familiare. Scusa Francesco, però io ti chiedo una cosa, tu ragione. Che hai 72 anni, ti posso fare una domanda molto diretta, ma quanto, certo. quanto pensi alla figa durante il giorno? Sempre, mi basta questo. Però purtroppo non ce l'ho. Vabbè, lo so, a 70 anni è complicato, Francesco. Ciao, grazie, ciao. Rosaria Milano, poi Franco, scusami Franco, ma devo dare la precedenza a questa signora. Rosaria, signora, signorina, amica, facciamo, ascoltatrice. Facciamo a signora, io volevo solo dirle, Cruciani, che la sì. Io questa trasmissione la sento da 14 anni. Sì, no, questa trasmissione non esiste da 14 anni. Da 10 anni. Nemmeno, quasi 9. Va bene, sì. Comunque lei, ecco, essendo così maiale, farci sentire alla sera. Sì. Quelle beh, essendo così maiale, lei ha dato per scontato che io sono così maiale. No, lei è un maiale perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Sì. Al fatto che ieri sera quella stronza lì che ha telefonato, chi, che scusa? Io non so se era un uomo o una donna. Ma chi? Proprio, chi? Indecente, adesso la 9:15. Ah, la signora Nappi, la favolosa di signora Nappi. Se vuole le faccio ascoltare le sue preferenze. Non è possibile che noi Radio 24 è diventata radio porno. Ma i suoi responsabili, facci sentire queste cazzate qui alla sera. Era una bella trasmissione. Lei l'ha rovinata. Tant'è vero che io non so quante gente ancora l'ascolta. Signora, lo sai che la sua voce così incazzata mi fa quasi mi dà un mi carica tantissimo. Ma lei è maiale, ma che cazzo ce ne frega noi che lei le piace sentire? Ma lei si rende conto? Sì, ma no, che sì. Messaggio vuole dare agli italiani? Io ecco, io ieri sera pensavo lei, sì. Ho detto, ma a Cruciani qual è il messaggio? Nessuno messaggio. Nessuno? Ma se lo dica, un messaggio che lei vuole dare di destra, di sinistra, di centro, che le piace su, che le piace giù. Ma a noi che cazzo ce ne può fregare? Ma continui a fare la sua bella trasmissione che ha sempre fatto. Con quell'altro lì, piagnisteo lì che c'è vicino, che eccomi. Veramente ecco, anche lui. Ce l'ha pure con te. Vedi che ce l'ha con me. Che io sono indignata delle porcherie che lei ci Bel fa sentire tutte le sere. Ma questo quando dire, arriva l'ora della che noi dobbiamo ascoltarla. A me dispiace perché poi io ho un lavoro che sento, mi entra gente e che devo lavoro è? Spegnere. Che lavoro non è? Te lo dico perché non lo voglio neanche. Non te lo no, voglio. Mi dica che lavoro fa. Mica le ho chiesto se fa l'amore con suo marito. Mica le ho chiesto se fa l'amore con suo marito. Detto io se... non voglio dire il mio lavoro, le voglio solo dire che mi entra persona e io devo sempre, mi dicono, ma chi è quel deficiente di Cruciani? Tutte le volte che mi entra persona e io gli dico sì, devo spegnere, devo sempre spegnere e tutte le volte lei mi parla sempre di orgasmi, di che aveva ragione quello di prima, quante ne ha dette, aveva ragione, lei deve parlare di amore, di fiori, di colori. Scusi, di ma lei... Abbiamo i problemi in politica, abbiamo quei deficienti che rubano tutti i giorni, ma non ha visto a Genova che cosa è successo? Scusi, ma lei ha un orgasmo vaginale o clitorideo, signora Rosario? Lei ce l'ha nella testa l'orgasmo, ecco perché lei è un maiale. Un maiale lei. Ma scusi, lei ha un orgasmo vaginale o clitorideo? No. No, lei, io, dentale, ce l'ho dentale. Ma questo è buono, dentale non è male. Però, mamma mia. Mamma mia, come lotta la signora, come lotta. Guardi, lei è veramente lotto, ma io ieri sera l'avrei sbranata. Con l'altra porca lì, quella cosa era un maschio o una donna? No, è una donna, quella. È una pornostar famosissima. Vabbè, adesso, di 23 anni. Fa il suo lavoro, quella sì, lì, non è colpa sua. Che ma lei non può intervistare, ma lei ha dei responsabili. Io voglio parlare con un responsabile. No, non c'è nessuno. Perché voglio sapere, brinte, ormai. Questo è bello, sarebbe registrare, è bellissimo. Come fa a sentire queste, come fa non nessuno a telefonare a dirvi che deve smettere di fartele parlare quelle signorine, che andassero a aprire le case di tolleranza anziché andare per strada? Ma chi ha la, ma poi la povera signora Nappi è intervenuta qui, ha detto sì, Nappi, un po' di cose. Nappi, sì, signora Nappi, così si Nappi chiama. È intervenuta per dire a lei come le piace, ma lei lo sa che messaggio dà a tutti quegli uomini che diventeranno tutti froci come lei? Ma perché? Beh, no, cosa c'è? Certo. Non c'è un legame, no, questo si può criticare tutto, ma non c'è un legame diretto, questo non si può dire. Comunque questo è il numero uno, perché lei è il top, fa sentire queste cose. Siamo così. Top totale. No, veramente. No, ma non trovo il legame, io guardi. Voglio sapere, sì, io voglio sapere il messaggio che lei vuole dare agli italiani, ai maschi. Ai maschi, perché lei la dà ai maschi quel messaggio là. Ai maschi, Sì. Ai maschi. Io non voglio dare nessun messaggio, cara signora. Io regalo. Lei che la vuole provare, ha detto, vuole provare, perché ieri cosa vuole? Ah, sì, la canale. No, volevo provare la cosa nel sedere, quella roba lì, le dice, no? Certo. Ah, ma lei vedo che si ricorda bene i dettagli, cara signora. Beh, è rimasta impressionata. Scusi, quanti anni ha, signora Rosaria? Io sono rimasta impressionata, sì, perché quanti anni ha, cara signora? Quanti anni ha? 50. Beh, siamo buono però, è normale. Arrivederci, grazie. Ciao. Questa radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione. Poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Buonasera, signor Paolo Ruffini. Siamo al top, eh? Siamo al top. Come va? Buonasera. So che... Messaggio di speranza per il paese! Beh, caro Parenzo, tu sai che in questa trasmissione... Non è così, amico mio, siamo al top. Cioè la versione originale. Sì, ma dovresti riprenderla, però dovresti uscire fuori da questo torpore. Virgola, amico mio, siamo al top. Cioè ti dici siamo al top è detto, cioè, con un tono diverso. Certo, tutti copiano, non è monosillabo. Amico mio, ci sono due virgole. Virgola, amico mio, virgola, siamo al top. Questo è l'originale di Parenzo, registratelo. Esatto, allora, tu sai che in questa trasmissione non si fanno marchette per definizione, no? Cioè, diciamo, non si fanno marchette per definizione. Però c'è un signore che voi forse dall'audio che abbiamo mandato prima avete riconosciuto, un signore che è venuto qui ma alla Zanzara. L'ex direttore di Rai 3. No, non c'entra una mazza. Non c'entra. Ma perché devi dire sempre queste stronzate? So. Comunque è tutto molto bello, io te lo voglio dire subito, è tutto molto bello. In generale, la vita. È tutto molto bello, dico solo questo. C'è un signore che è venuto qui alla Zanzara quando insomma aveva fatto, non dico una gaffa perché noi non la consideriamo una gaffa, quando era però nell'occhio del ciclone, sai che si usano sempre queste frasi, nell'occhio del ciclone. Ma nell'occhio di leone veramente, non del ciclone. Anche di leone, in questo caso, vero, nell'occhio di leone. Anche il direttore di Leone. Sì, certo. Sì. Insomma, quello che battuta disse che la Loren, la topa meravigliosa, cose meravigliose per noi, meravigliose, non la Loren, non, ma le cose che diceva. Però è venuto qui e insomma... Nel giorno forse no, un po' di discussione, di casino intorno a lui. Per cui questa volta voglio fare proprio una marchetta pazzesca. Cioè tutti gli ascoltatori della Zanzara, tantissimi, hanno l'obbligo morale, civile, politico, e anche militare se vogliamo, di andare a vedere il film di Paolo Ruffini, Tutto molto bello. Paolo Ruffini, buonasera. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top, però scusa, dopo la signora Rosaria siamo al top, assoluto, caro Paolo, però devi, dalla prossima volta, Tutto molto bello comunque, si chiama Tutto molto bello, però la prossima volta, siamo al top lo devi dire alla Parenzo, perché qui ci sono varie versioni, allora, hai visto? Lo faccio alla Parenzo. amici miei, siamo al top. Siamo vedi al top. Però esce fuori l'attore, l'attore perché lui oltre, adesso fa finta di fare il regista. Una cosa io posso dirvi, una cosa nel film ce l'ho messo due volte, siamo al top. Ma veramente, cioè, stai dicendo veramente. te lo giuro sul benevoglio mia nipote, cioè questo film risente notevolmente, non c'ho figlioli, questo film risente notevolmente del mio ascolto della Zanzara, non cioè, per due volte siamo al top. E poi che c'è di Zanzara? Tre volte, in un momento sul ring si sente un pochino basso e sul finale altissimo, e poi c'è un altro momento dove io sono con dei Boy Scout e racconto la storia di Robin Hood in versione, io faccio una gente delle entrate finché dico che Robin Hood è un delinquente che è responsabile del crollo del PIL nella regione di Nottingham, del fazioso del radical chic, un bambino di 9 anni. Poveraccio. E dico che in Germania fanno educazione civica, in Germania lo fanno, dico che era un'altra frase, una frase parenziana, diciamo, una frase parenziana. Vi siete accorti che tra noi c'è Paolo Ruffini che ha girato un film, il suo secondo film, tutto molto bello dopo il successo di Fuga di Cervelli, e vabbè, e questo l'abbiamo fatto, la marchetta l'abbiamo fatta, però sai che non è marchetta, però ogni tanto adesso va ripetuto, tutto molto bello, improvvisamente, anche quando lui dice una stronzata tutto molto bello comunque. Però scusami, ma tu perché ti sei messo in testa di fare regista? Adesso io voglio dire, no, cioè tu, ma chi te l'avrebbe mai detto di fare Paolo Ruffini regista, tutto con gli anelli, pieno di anelli, pieno di tatuaggi, detesta una bestia, no, ma perché è molto divertente, ma gli altri registi, quelli che fanno i fighi nel mondo del cinema, come ti considerano, una specie di li sto sul cazzo a bestia, sto cazzissimo proprio, una roba non mi può vedere nessuno, mi gufano tutti da morire, ma infatti guarda, se riesco a fare un altro film, però almeno due benzinai me li dovete fare, cioè un cameo, un passaggio, una comparsata me la dovete fare. Al terzo film, allora io vi firmiamo il contratto, allora. il film della Zanzara, tutti i propri tipi da Zanzara, Cosmo da Milano, Riccardo Paolo da Roma, ma mi hanno preso i Riccardiani nel Facebook, mi pure, hanno accettato la richiesta, pure. Riccardiani, ma è una cosa pazzesca. Allora ragazzi, facciamo un contratto qui, allora terzo film di Ruffini, terzo film, se ci sarà, il secondo, se ci sarà, dai, sarà, questo è il secondo, questo è il secondo, questo è il secondo. Parenzo, non sai niente, come al solito, al secondo film, al terzo film, dico, quando ci sarà il terzo film, ma sei un po' ritardato stasera, quando ci sarà il terzo film, anche Buca aveva anche invitato all'anteprima, ma c'avrà il bambino, no, problema di bambino, registrare una cosa, no, non c'era, non si può dire cosa, non si può dire cosa dovevi registrare, no si può dire, io lo so, no, anche tu hai un vincolo, credo, di segretezza, perché abbiamo porta una sega, io lo direi tranquillamente. Ma maestriscia, no, come si chiama? Come si chiama? Quello degli scherzi, ma non è mica a parte. Lo stesso giorno in cui lui aveva l'inaugurazione, tutto molto bello. Poi lui esagera quando io devo il contratto, Giuseppe, fai il contratto è questo. Allora, terzo film, così, minimo un cameo, minimo un cameo mio di Parenzo, altrimenti una particina molto piccola, c'è, cioè, dobbiamo apparire in qualche modo. Così. Firmiamo. Voi due e anche il signor Pardo. A proposito, domani si sposa Pardo. Allora io voglio dire una cosa qui a tutti gli ascoltatori della Zanzara. Io dico una cosa, l'ho già ripetuta il primo giorno che sono arrivato, l'ho ripetuta a Trieste ai premi della radio, ma vi pare normale? Ti pare normale, caro Paolo, che il signor Pardo, conduttore di Tiki Taka, nonché di tutti i convocati insieme a gente qui su Radio 24, si sposi con testimone Antonio Cassano? Cassano non può fare il testimone di nozze, perché è già nullo il matrimonio, è già nullo in partenza. Io sono convinto che col gusto è un flop totale, Che male c'è? Come il film della Guzzanti, no? Sì, è andato male il film della Guzzanti, ma comunque un periodo va tutto malissimo, un periodo che è un disastro. Toccati un po'. Sto grattando coglioni a bestia. No, ma guarda, davvero. Ma io ti dico, l'unica cosa che vorrei fare è che almeno al cinema, però, andateci, perché è l'unico posto, l'unico territorio dove non ci sono rotture di coglioni, non c'è razza. Senti, c'è ma credi, un'altra topa meravigliosa, oltre alla Loren, non è che ti sei sentito con la Loren per telefono nel frattempo, no? No, però stanno tutti rompendo. Basta, non vogliamo più parlare. Potresti di questa chiederle di fare un cameo anche a lei, però, nel prossimo film, la signora Loren. A proposito, la pancetta di quest'estate, ce l'hai ancora, caro Paolo? Hai visto che schifo? No, poi non l'ho persa. C'hai un po' di pancetta, perché sei un bel ragazzo, per carità, sicuramente piglia. Rimorchi a bestia, rimorchio. Diciamo ci dà da fare, ci dà da fare. Sei più Fedez, pare che Fedez invece, il signor Fedez. Signor Fedez, signor Fedez. Ah, rimorchio, più lui? Sì, sì. Beh, i rapper vanno di moda, ora hai visto tutti questi tatuaggi sul collo. Io ce l'ho un tatuaggio, ma non so, no, tanti. Ma te sei più, sei come me, MILF, Cougar, ti piacciono più anzianotte, o no? Cougar sono quelle più aggressive. No, a me mi garbano. Ma, sai, te garba tutto a te. A me mi garba, a me importa una sega, va bene tutto, non c'è problema. Non c'è problema. Noi si dice, a Livorno si dice, ci sta una mutanda per tutti i culi. Poi la traduzione dopo la pubblicità. Paolo Ruffini, com'è che si chiama il film? Tutto molto bello, tra poco. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Siamo qui, la Zanzara è con noi, Paolo Ruffini, attore, regista, tutto molto bello. Prima però Parenzo sì. Ce l'ho qui. Ma sulla lingua. Ma Grillo però? Non hai detto niente. No, ma Grillo sta facendo il suo, che bisogna seguire. Ma gola, dai. Cosa? Ma cosa c'entra? Ma tutti morti. Ma voi siete in crisi, 5 Stelle siete in crisi, Grillo siete in crisi. Sei morto, finito. No, io sì, un po' c'è in crisi qui come tutti. Casaleggio, guardalo. Guarda che ha rivoluzionato il mondo. Ma insomma, l'ho il mondo, chiamato non anche Steve Jobs, è quello della me. Ma vi state scannando come i pazzi voi con Pizzarotti. Certo, comando io. Pizzarotti, uno della pizza. Ma cosa c'entra Pizzarotti? No, veramente il sindaco di Parma. Ma quale Parma? È finita, chiusa. Abbiamo visto. Ma fanculo, anche l'inceneritore, chi se ne frega. Pizzarotti deve andare a ma che via, è morto. Rimango no, io, il movimento, questa gente, queste facce, la radio, Confindus, finito. Squinzi, ma uno che si chiama Squinzi, ma che c'entra Squinzi, fa? Scusa, che c'entra cosa Squinzi, cosa governa una ra, ma perché tutta gente è finita, ma no, degradata. Ma poveraccio, Camusso, che uno ha fatto? Col nome, cos'è un Camusso, è un animale, che cosa c'è, ma chi è Renzin, vaffanculo. L'Italia di merda, perché? Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Allora ragazzi, una sola notizia che me la sono conservata da qualche giorno. Caro Parenzo, oltre il 30% dei certificati medici dei lavoratori dipendenti sì. viene presentato di lunedì. Il lunedì, oltre il 30% dei certificati medici dei lavoratori dipendenti viene presentato di lunedì. Indovina un po' qual è la regione che ha il record di giorni medi di malattia all'anno. Il Trentino. No, indovina no. un po'. La Calabria. La Calabria. E ho detto tutto. E ho detto tutto. Questa è la merda d'Italia. Questo è. Allora, Paolo, caro Paolo, che voleva dire quella cosa in livornese di prima? No, che ci si adatta. Che ci ah, s'adatta, ci si adatta. Noi siamo ci si adatta, ci si adatta. Ci si adatta. Sì. Senti un po' una cosa. Allora, facciamo una finta intervista come se fossimo alle Iene, sai quelle interviste rapide, sì. eccetera. Ma tu sei di sinistra o no? Ma lo sai che non lo so, alla fine ora non me ne sto più rendendo. Cioè, di sinistra vuol dire che uno sta per Renzi? Beh, sinistra. Sì, anche, diciamo, sei renziano, hai votato Renzi? Ma purtroppo quest'anno l'ho votato, però forse sì, l'avrei votato. L'avresti votato. Sì. Ma sai che cos'è il patto del Nazareno? Ma hanno detto quella cosa Renzi Berlusconi, sì. L'accordo Renzi Berlusconi. Ti piace l'accordo sì. Renzi Berlusconi? Non te ne frega niente. Credo che sia veramente il top. Un po' io non sai come quando ora Alien contro Predator li vedi nello stesso film, no? Godzilla e Mothra, Jason e Freddy Krueger, no? Quando vedi due grandi mostri combattere al cinema. E invece poi ma poi non si sa mai se deve morire uno o l'altro. Senti, ma l'articolo 18 esiste nel cinema? Tu sai cos'è l'articolo 18? Sì. Sì, l'articolo 18 lo so, ma io sono a favore. C'era un ascoltatore che l'ho sentito qualche giorno fa che diceva delle cose fantastiche. Fondamentalmente, cioè, credo che insomma ognuno avrebbe il diritto di licenziare per i giusti motivi che ritiene più opportuno senza rivedertelo scomparire, insomma, poi senza rivedertelo comparire successivamente, insomma, credo quello. Io sono dalla parte di un buon senso, ecco, non so se sempre c'è, però. Ma Grillo è un bluff secondo te, eh? Questo non te lo so dire. Io non sto seguendo nemmeno cosa sta facendo il sindaco a Livorno. Purtroppo il sindaco a Livorno, Logarin. Non sei niente. Ma non so niente perché purtroppo sono via, non lo so. E la Boschia è una topa meravigliosa? La Boschia è una bella sofina. Però non è una topa meravigliosa. Non è una topa meravigliosa. No, però due capriole ci si farebbero. Due caprioline. È molto. Allora, ma la vogliamo legalizzare questa droga leggera o no? Io legalizzerei tutto. Legalizzerei tutto a partire dalla prostituzione. E volevo, io sono un parenziano. Volevo sottolineare lo scivolone delle multe su cui è cascato Parenzo. Pur essendo parenziano, dici. Tu sei parenziano. Io sono parenziano, però quella roba lì è David. Si chiama David. come gli inglesi. Un vecchio cartone animato, David Gnomo, amico David mio. Gnomo, bravo, amico che mio. Ti voglio bene, però certo. Cioè, quella roba lì no. Dai, non si può vedere. Giustamente contro lo sfruttamento lo siamo tutti, ma uno non può essere multato. Una bella multina, amico mio, ti arriva la multina, ti ma fermi, perché? Tiri perché? Sulla sfruttata. Poi lui te l'hai sempre fermato, ma lui te la vuole mandare a casa, capito? A casa, perché sì, così sì, la moglie ti fa un culo così. Non so se la moglie, la nonna, la zia. Ma perché? La multina. Senti, perché c'è lo sfruttamento in alcuni casi. Ma che c'entra, mamma mia, sì, dai. Ma tu sei andato a puttane qualche volta? Beh, io nei miei tempi sì, si usava molto il puttan tour, che è una cosa che prima. Il puttan tour però era finto, però quello era appunto finto. Sì, era finto. No, vabbè, ma a volte si concretizzava, poi mi ricordo se era un po' briai, quindi insomma non. Ma no, guarda che non ti devi vergognare, io l'ho detta, se lo dico no, io. No, ma non mi vergogno, ma stai scherzando. Cioè, no, bello perché il mio film è anche molto family, non si dicono parolacce. Non si dicono parolacce. Sai che ci sono solo due o tre parolacce, ma ci puoi portare la tua figliola tranquillamente, ma tu hai 10 anni. No, 9 non la porterò, 9 anni non la porterò. No, ma è perfetto. Giuseppe, sì, è perfetto. 9 anni la posso portare. Il protagonista si chiama Giuseppe. Allora, Marco Giusti, che io seguo sempre, Marco Giusti, grande critico cinematografico, nonché tuo amico, dice che questo film piacerà agli under 18. Va. È vero. Agli under 18. Dunque, ce la posso portare. Ma Parenzo, puoi portare anche la tua? Ma sì, lo porterò. Io poi c'ho il cinema dietro, il cinema del signor Viperetta dietro casa mia. Oh, Viperetta, dimmi qualcosa di Viperetta, ti prego. Dimmi qualcosa di Viperetta. Viperetta è top, è meraviglioso. Il Viperetta è veramente grande caratterista. È la dimostrazione dell'Italia di oggi, secondo me, che un organizzatore, un improvvisatore cinematografico e un attore anche, cioè che lui non era un attore, quindi insomma, vabbè, insomma quello che è di seconda categoria, cazzo, riesce a diventare un mito totale. Cioè siamo proprio in balia del chiunque da una parte. Beh, il calcio riesce a trasformare anche una persona che non conosceva nessuno del grande pubblico in una specie di subito da Fazio, perché Fazio è sandoriano. Tu quando ci andrai mai da Fazio dopo quello che... Ma credo che non mi cacherà mai. Sono dei salotti impenetrabili. Perché non sei nel giro giusto, no? No, ma io sono molto di bottega. Lo sai, io faccio gli spettacoli laddove anche a volte i miei colleghi un po' si vergognano. Cioè, a me mi garbano tantissimo le sagre. Adesso vado a fare gli spettacoli nelle sagre, la sagra della Polpetta, la sagra della Pettorina, capito? La sagra a del gratis, tortello. Magari a gratis o no? No, a gratis col cazzo, no, mi faccio pagare abbondantemente e lì pagano anche bene. Però ti dico che lì respiri la gente vera. Io amo la Zanzara per questo, capito? Perché è una grande sagra, cioè la Zanzara è di paese, non è pop, è hard pop. Cioè voi quando dite del bar in realtà dite una cosa verissima, cioè voi siete hard pop, siete la Zanzara è libertà, questa è la cosa che mi piace, e nelle sagre respiri quell'aria di libertà, è lì che si fa veramente politica, capito? Non nei salotti, secondo me. Vabbè, caro Paolo, io starei con te tutta la sera, però ti devo lasciare, ti abbraccio. Dove sei stasera adesso? Vi voglio benissimo. Ciao, voglio benissimo. A presto, ragazzi, Maturino, tutto molto bello, tutto molto bello. Andate, fatelo per me. Paolo è una persona che è venuto qua anche fottendosene di farsi pubblicità. Adesso stasera sì, naturalmente devi presentare il film, mica ci stiamo nascondendo. Però, insomma, capito? Ciao. Grandi. Ciao. Viva la Popa. Allora, Filippo da Milano, dai, Filippo da Milano. Pronto, Peppe? Sì, chi è? Buonasera. Chi è? Buonasera. Filippo, dimmi, ciao. Sì. Ciao. Senti, siamo con un amico qui, siamo usciti dal lavoro, ti volevo invitare a cena, paghiamo noi una pizza. No, ma scusa, abbi pazienza però, Filippo, cioè tu sei uscito dal lavoro, adesso dove ti trovi? Vabbè, gente gentile. Sono qui, alla sede della Radio 24. Tu sei venuto qui senza così, senza colpo ferire. Eh beh, io però sto facendo la trasmissione. Se volete venire a assistere alla trasmissione, venite a assistere alla trasmissione, non c'è problema. Salite, fatevi dare i permessi dal signor Squinzi e salite. Sì, potete salire. Non c'è quanti Squinzi però alla reception. Scusa, ma è una roba incredibile. No, ma dico da Squinzi. No, come sì, ho capito, come entità. Però detta così, metti chi ascolta, uno si immagina che c'è il signor Squinzi. Parenzi a Roma? Sono a Roma, caro. Se non ti disturbo. Noi non ci possiamo permettere di invitare Parenzo a cena, che ci costa troppo. Quello sì, perché questo è vero. Perché possiamo offrirla? Perché io mangio pizza con salmone. No, però io dopo un appuntamento. Dunque, venite a vedere la trasmissione, vi saluto volentieri. Capito? Però, okay. Però non ci fanno passare il centralino. Ma non ti preoccupare, adesso risolviamo col signor Squinzi. Adesso scende giù col cappellino. Il signor Squinzi, ma veramente sta a Roma. Di solito, oppure sta a casa sua. Vabbè, ciao. Allora siamo giù. Ciao. Luca, Torino. Dimmi, caro. Ciao Davide, anche Davide, perché ci va. Però io mi voglio confrontare con te, perché tu sei un maestro. In che cosa? Scusa, maestro, in che cosa? Con le MILF. Ah, le MILF. No, vabbè, messo. Che vuol dire? Spieghiamo. MILF significa Mother I Like to Fuck. Cioè, bravi, diciamo la verità. Cioè, madri che vorrei trombare, cioè che con cui vorrei avere una relazione sessuale. Madri. L'età. Cioè, sì, l'età, ma è anche persone che hanno dei figli, capito? Non c'entra l'età. Sì. Però... Soprattutto quello. Vabbè, allora anche tu sei un amante di queste robe qui? Della categoria per forza. Dovresti veramente fare dei corsi, fare qualcosa. Ma no, ma non esageriamo, dei corsi, dai, su Luca, non esageriamo. Un po' cacciatore sei, e c'hai la faccia, poi tutto un po' raffinatello. Ma che vuol dire raffinatello, scusa? Beh, no. Che vuol dire raffinatello? Io ho visto l'altro giorno in televisione, hai proprio la postura del cacciatore. Vabbè, ma adesso non esageriamo, Luca, non è che sto lì ogni secondo così ad annusare l'ambiente. Alessandro Torino, grazie Luca, ti abbraccio. Alessandro Torino, veloce, vai. Alessandro. Pronto, eccomi. Dimmi, caro. Ti volevo dire, ma a me pare strano tutta questa ossessione di buon anno per i gay, per gli omosessuali, per i soci. Mi ricordo un po' quei ricin sui repubblicani che ce l'hanno con gli omosessuali e poi alla fine sono i primi a far di nascosto le peggio, insomma a farselo buttare nel culo, parliamoci chiaro. Tu dici che Buonanno è un gay represso che se lo fa mettere in quel posto. Ma certo, Buonanno si vede che passa tutta la notte a sognare di farci sfondare il culo dal primo trocio, come dice lui che passa. Sì, adesso possiamo anche non dire, non dire, abbiamo capito benissimo quando hai detto prima, adesso sei passato a farsi sfondare. Sì, d'accordo. Insomma, secondo te un gay represso, questo è il punto, è un gay represso, non credo proprio. Secondo me ha una fidanzata, poi non lo so quello che fa di notte, no, Alessandro. Ma è emotivo, perché magari lui avrebbe voluto tanto andare con un gay, ma il gay non gliel'ha dato. Ma tu sei gay? Tu sei omosessuale? No, io non sono gay, no. Non sono gay, ho amici gay, però non sono gay, quindi non è un problema personale il mio nei confronti della categoria. Vabbè, categoria, poi non esiste categoria, cioè se qualcuno si vuole sentire categoria sbaglia anche tra gli omosessuali, non esiste la categoria, esistono le persone che poi alcuni sono persone che cui piace l'uomo, altri piacciono le donne tra gli uomini, così non esiste la categoria degli omosessuali, anche questo è ridicolo, bisognerebbe togliere questa roba qua, la categoria, non esiste la categoria, proprio non esiste. Esatto. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Ma non posso stare bene quando vedo che migliaia di persone sono sotto la soglia proprio della sopravvivenza, non mi godo neanche più la mia vita. Allora, la proposta che ne parleremo domani e dopodomani, faremo le proposte, non ve le posso anticipare, comunque il nostro diritto alla vita, che poi è il nostro reddito di cittadinanza. Non è un obolo, non è un regalo, però vai da una persona che perde il lavoro, chiunque, e lei dici: senti, io sono lo Stato, facciamo un percorso insieme, non ti mollo, ti do 600 euro a te, 600 a tua moglie, in modo che puoi sopravvivere per un anno, due anni, tre anni, ti offro tre lavori. Però da questa cosa che dice Grillo si capisce perché sia stato, come dire, sorpassato da Renzi, perché è esattamente quello che vuole fare Renzi, cioè è esattamente quello che vuole fare Renzi. Poi lasciamo perdere sia giusto, sbagliato il reddito di cittadinanza, eccetera eccetera, però Renzi dice le stesse cose di Grillo, solo che Renzi le può fare perché è al governo, Grillo non le può fare perché non è andato al governo e non è voluto andare al governo quando forse poteva. Beh, amici miei, grande ritorno alla Zanzara. Ha scritto una cosa memorabile, secondo me, memorabile sul suo sito. Pane sul bianco, suo sito Angelo Inter. Pane ma bianco, che c'entra Angelo Pane giorno. Bianco? Cosa no. c'entra Pane Bianco, amico mio? Non c'entra nulla. Ha scritto qui? Una cosa, secondo me, fantastica, molto cruda, molto vera, molto cruda, molto, molto feroce anche, come nel suo stile. Una cosa molto feroce sulle donne. Sulle donne il PIL. Sulle donne il PIL. Paolo Barnard, buonasera. Ciao Scemi, come andiamo? Ciao, sì, noi siamo totalmente imbecilli. Siamo totalmente imbecilli. Rispetto a te, grande maestro, grande professore. Vabbè, ma questo è ovvio. Questo è ovvio, è scontato, sì. naturalmente, no? Sì. Senti, a proposito, ma quando facciamo la tua imitazione, non so se l'hai mai sentita, sì. È abbastanza. Ti piace oppure no? Sì, mi piace, però ne avete fatta solo una che mi risulti. Non no, so, non ti preoccupare, no, ti mando i file. Ti mando dopo vabbè. I file. Ti mando no, comunque i file. È buona. È buona, diciamo, è buona. Benissimo, Andro, hai l'approvazione del titolare del vero Paolo Barnard. La parte migliore è allucinante, quello è bellissimo. Allucinante. Allora, Paolo Barnard, sapete, io non so mai come presentarti, economista, studioso, cazzaro, pazzo, non so come presentarti, comunque vabbè, esperto di cose economiche, nonché ospite giornalista, caro, giornalista vabbè, ma che tu non conosci, ma no, lo so, purtroppo io faccio il cazzaro, il cabarettista, che vuoi fare Paolo, siamo così. Allora, Paolo Barnard ha scritto una cosa che riguarda il PIL, ora non fare da noi il democristiano, caro Paolo, perché tu hai scritto, voglio le scuse delle donne, le donne mi devono chiedere scusa. Per quale motivo le donne ti devono chiedere scusa, caro Paolo? Perché io scrissi tempo fa un articolo, sono andato a puttane, dove dicevo tutta una serie di cose che sono clamorose, nel senso che il mondo femminile ha davanti a sé 170 miliardi di business di prostituzione e pornografia davanti agli occhi, il 99% dei loro ragazzi va a puttane, il 110% si fa le seghe con i film porno, le donne non vogliono affrontarla sta roba qua. E allora io ho scritto questo articolo provocatorio per dire ragazzi, cioè ragazze, donne, cerchiamo di capire questo tsunami che vi percorre la vita, la reazione delle donne è no, maschilista, poco, maiale, eccetera. Il mio ragazzo non lo fa, che è una stronzata, perché lo sappiamo, il 100%, 15%, 120%. Ma ci dici i numeri sono? Scusami Paolo, ma perché le donne dovevano reagire a questa cosa? Non ho capito bene, perché dovevano reagire a questa cosa? A cioè, devono prendere nuova. Consapevolezza di che? No, lascia perdere la nuova, quella vecchia. Cioè, ma non è vecchia, scusami, voglio dire, cioè, vivono la vita con questo colosso mostruoso che gli percorre l'esistenza giornaliera, non lo vogliono affrontare, cioè, ma perché deve esistere un business da 150, secondo le statistiche 120 miliardi, cioè, di prostituzione e di pornografia, quando in perché realtà non soddisfano. Si potrebbe risolvere con un bel colloquio con le donne, cioè non soddisfano, non funziona, tu dici che non soddisfano i loro uomini. Non è che non soddisfano gli uomini, cioè, evidentemente c'è qualcosa che non va, cioè, o è il DNA e nella tua testa c'è qualcosa che non va. Nel DNA delle donne, in che senso è il DNA? No, il DNA maschile, cioè, noi siamo stati creati milioni di anni per spruzzare il più possibile. Spruzzare, le donne sono create per conservare il feto, cioè, quindi c'è un problema, dobbiamo affrontarlo insieme. C'è un problema, no? Sicuro, sì. Quello che è successo è Paolo Barnard porco di qua di là, poi mancato dalla gabbia. Vabbè, allora, questo avevi scritto sulle donne. Adesso però, siccome la prostituzione è entrata in pieno nel calcolo del PIL, cioè ci ha di fatto fatto risparmiare qualcosina, vabbè, tu poi hai un'altra idea, insomma, ci ha reso più presentabili in Europa, diciamo così, senza entrare nel merito delle cose, tu dici, mi devono chiedere scusa perché questa cosa qui ha rivalutato la prostituzione. E devo dire la verità, da questo punto di vista Paolo Barnard ha ragione, perché se qualcuno sputava, come fai tu Parenzo, qualcuno attaccava la prostituzione, vergogna. No, io non è che attaccavo la prostituzione. A te non piace la prostituzione? No, io sono per l'apertura dei bordelli. Invece a Paolo Barnard piace tantissimo. Quante volte vai a prostitute, caro Paolo? A sfruttate anche. Io spessissimo, cioè praticamente è una pratica, direi quotidiana, specialmente adesso. Ma come quotidiana? Scusa. Alla medaglia di cavaliere del lavoro per aver contribuito al PIL nazionale per quantità, per cifre incredibili. Ma cioè, voglio no, perché il discorso dell'informazione. Cioè lei ogni giorno aspetta, va a prostitute. Aspetta, fai finire un attimo. No, il discorso dell'informazione qui alla Zanzara, che naturalmente è uno dei fari dell'informazione italiana, va approfondito con una certa competenza. Sì. Sai che io sono sempre molto preciso. Allora tu vai nel trattato che ha stabilito questo nuovo calcolo del PIL, a pagina 16, lettera A, si legge: sì, la sega è deflazionistica, essa non permette la circolazione di capitale, dunque interferisce con i meccanismi di trasmissione di stabilità dei prezzi delle banche centrali. È quindi introdotta una nuova forma giuridico-economica di PIL, il puttaniere interno lordo. Poi dopo c'è tutta una storia così lunga che spiega come si fa, eccetera, eccetera. Ecco, voglio dire. Dunque, tu sei uno dei principali contribuenti a questo nuovo tipo di calcolo del PIL. Sì, ma io l'ho detto da anni che la sega è deflazionistica, non per niente guarda come si è messa in Europa, quindi. Scusa, però tu hai scritto una cosa un po' più cruda in realtà sul tuo sito. Cavolo, tutti i pompini che mi sono fatto fare dalle slave su Via degli Orti a Bologna in sti anni erano per una buona causa e io l'avevo detto. Scusa, perché tu ogni sera vai lì a Via degli Orti a Bologna? Beh, no, ogni sera dico proprio no, però insomma sì, spesso. Cerco di darmi da fare per il bene del paese, insomma, com'è il mio mestiere. Poi ma cioè, ti senti un patriota da questo punto di vista? Assolutamente. Cioè, quanto spendi? Scusa. È una sconfitta clamorosa del femminismo. Del femminismo internazionale. Beh, sicuro, questo è vero, e non vedo femministe incazzate con l'Unione Europea. Cioè, questa ha ragione, hai ragione su questo. Vabbè. No, ma su questa ha ragione lui, però Parenzo, inutile che ti arrabbi, perché è vero che se la prostituzione entra nel calcolo del PIL, allora legalizziamola, allora rendiamola. Ma io guarda che io su questo non discuto. Io dico che il signor Barnard e tanti come lui quando ma tu vanno lo vuoi con multare, questa... lo vuoi certo, multare? Ma certo, cioè, ti vuole multare molte Paolo. Di queste signorine che hanno fatto questi servizi al professor Barnard probabilmente sono anche delle sfruttate, sono sottoposte al racket, sono sottoposte digli qualcosa, alla violenza Paolo, ti prego, digli qualcosa. Paolo. Dei magnaccia, questo è il punto. Paolo, e lui qualcosa. Sta qui a pontificare come si chiama, la deflazione dai. No, ma sullo sfruttamento il discorso è completamente diverso, qui parliamo di economia, sono capitali che circolano e che vengono spesi principalmente poi anche in Italia, quindi è tutta un'economia che gira all'interno del paese, insomma, non c'è niente da fare, questo è vero, voglio ma dire. Fino a quando non sarà legalizzata ti la vuole prostituzione punire, ti vuole multare, molte di queste ragazze sono sottoposte al racket, ti vuole multare, tu ti sei vuole... complice del racket quando vai a farti fare i servizietti. Sei un ipocrita, vai all'inferno, leggi il Vangelo, sei un ipocrita. Ma quale Vangelo? Cosa c'entra la Maddalena? Ma cosa c'entra la Maddalena? Ma Pippi anche, quindi dai, smettila. No, Pippa non Pippa, Parenzo, Pippa non Pippa. Comunque le puttane e la coca, tu scrivi, ci hanno salvati dall'umiliante bocciatura come paese fallito. Ma tu Pippi anche? Io? No, perché mi calma invece di darmi... Come ti calma? Lo sai, che ne sai allora? Cosa hai fatto, vuol dire? Io sono disposto a fare la prova del capello. Io sono disposto a farla perché non ho mai pippato in vita mia. Di scienza, che siete ignoranti come delle... Allora, io sono, visto che mi hai accusato, io sono disposto a fare anche oggi la prova del capello perché non ho mai pippato in vita mia. Mi sono fumato qualche canna e questo l'ho detto e Cruciati lo sa pubblicamente. Non ho mai fatto uso di cocaina in vita mia, mai. E sono disposto a fare la prova del capello. Falla anche tu! Falla anche tu, Barnard. Falla anche tu. Ma ti sto dicendo che io ho scoperto quando avevo 20 anni che, essendo bambino Ritali, non sapete cosa vuol dire, ma passiamo sopra l'ignoranza, ho scoperto a 20 anni che la coca mi calmava, ho smesso, quindi nei miei capelli non c'è niente adesso, non è quello, cioè, non mi funziona la coca, altrimenti ma non ti funziona niente a te, non ti funziona niente purtroppo. Comunque, no? La cosa simpatica. Fondamentale è questa, cavolo, io puttaniere dichiarato sono un eroe della crescita del PIL italiano, mentre dico a una slava, cosa dice una slava? Scusa, ripetilo tu perché io... Farlo durare di più, circa, insomma, più o meno scritto, vanno molto di fretta. Ah, però adesso, parlando di non funzionamento, c'è qualcosa da dire su questo, però mi permettete di dire sì, una roba di economia? Sì, più o meno, dai. Di economia, ecco, dai, adesso, dai. questo abbiamo detto tutto quello che volevamo. Il problema è che siccome di economia e di macroeconomia non capisce un cazzo nessuno, meno che meno i tecnocrati dell'Unione Europea, il problema è che tutti sti soldi che vanno aggiunti al PIL sono fasulli, non funziona, è tutta economia privata che viene messa dentro la società, e se io spendo 100 euro a puttane, qualcun altro nella società del privato si priva di 100 euro. Capisci cosa vuol dire? Perché nel privato i soldi girano in tondo. Cioè tu dici allora, che è una finzione questa roba. Se funzionasse andare a puttane, allora sarebbe una reale crescita del PIL. E come si fa? Beh, legalizzando. Non è che tu fai una legge per cui legalizza la prostituzione. Certo. Hai un introito. Mensile, un sussidio mensile statale per gli uomini un po' in difficoltà. Ma quanto spendi tu? Per andare. Allora, se lo Stato inietta del capitale al netto nel privato per andare a puttana, allora è vero che aumenta il PIL, ma nella realtà, e sto parlando seriamente. Ho capito. Quando il privato spende i propri soldi per andare a puttana o sniffare cocaina, nella non serve a niente. I soldi che ha speso vengono sottratti dal capitale del privato stesso, per cui spendi 10, sottrai 10. Ho capito, non un'ultima cosa, Paolo. Ho capito, un'ultima cosa: quanto hai speso nella tua vita per andare a puttana fino adesso? Molto. Non ho speso niente, scemo, dai. Ma come no? Hai speso, dai. Ma cosa vuoi che abbia speso? Non ho speso niente, non ci vado neanche a morire. Fra l'altro le detesto, hanno un modo di fare che è tragico. Ci ho provato una volta, ma mia, guarda, siamo perdo. Ah sì, figurati. Ciao, a presto, ciao Paolo. Ciao ragazzi. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Paolo Isotta, ciao Paolo. Chi sei, Giuseppe? Sono Giuseppe, come stai? Bene, grazie. C'è anche David. Grazie. David, omaggia il professor Paolo Isotta. Grande maestro Isotta. Quando io sento voci di cultura e non parolacce, sono estasiato. Vabbè, Paolo Isotta ha scritto un meraviglioso libro, che è un libro autobiografico di grandi ricordi, che si chiama La virtù dell'elefante. La virtù dell'elefante, che non è riferito alla sua stazza, che pure è notevole, vero Paolo? Sì, in larghezza, non in altezza. In larghezza, vabbè, anche gli elefanti sì, sono alti, però insomma, non tra i più alti. Sono meravigliosi. Io invece sono una specie di tricheco. Addirittura tricheco, sì. Beh, meraviglioso. Tricheco perché il tricheco è più basso dell'elefante. Sì. Allora, io però vorrei andare subito al tema che tu non vuoi affrontare, che è quello dei gay. Qua siamo, avanti. No, qua siamo, però ti voglio chiedere una cosa, poi ti chiederò anche di altro. Perché tu non ami la parola gay? Allora, io questo fatto l'ho spiegato molte volte, tu sei amabile, me lo chiedi, te lo ripeto. Perché? Secondo me, l'omosessualità, che noi napoletani chiamiamo arricchionam, che sarebbe la ricchioneria, è una parte ineliminabile della condizione umana. Sì. E naturalmente Nostro Signore si è incarnato anche per i gays. I gays non sono altro che dei tristi ricchioni ideologici. Allora, siccome so che Nostro Signore si è incarnato anche per i gays, so che quando sarò in purgatorio troverò anche loro, però io mi voglio allungare un po' di purgatorio, qualche migliaio di annetti, e dire in questo momento, così mi allungo il mio purgatorio, fanno schifo. Ti fanno schifo quelli che si chiamano gays, cioè gays. Che sono i ricchioni ideologici. Sì. Allora vogliono fare un rivendicazionismo parziale e statutario. Ci vogliamo mettere a fare le assemblee sindacali perché i gay debbono avere i diritti. Certo, hanno diritto pure loro di avere il subentro negli affitti. diritti, hanno certamente, io non contesto che abbiano dei però... diritti ereditari, io da cattolico naturalmente non posso accettare, mi fa orrore l'idea che si possano sposare in chiesa, perché il matrimonio è un sacramento. Ma quello non avverrà, perché nessuno vuole il matrimonio in chiesa. Ma quando tu parli di ricchioni, no, ideologici, lo vogliono. In chiesa oggi no, nessuno si vuole più sposare tranne i ricchioni. Questo è vero, ma la parola froce ti dà fastidio? No. È bellissima, no? Froce è stupendo, meraviglioso. Ricchione è ancora più bello. Perché però, ti piace più ricchione? Perché è napoletano. Ah, per quello. E Finocchio? Beh, sai, ha qualche disfottitorio. Sì. E dunque va bene. No, perché no. È come dare la guantata nello stomaco al vicino di platea. Devi sapere, caro Parenzo, che per Paolo Isotta il rapporto omosessuale è soprattutto un rapporto sessuale carnale, cioè difficilmente si può trasformare in un rapporto affettuoso, o sbaglio? No. No. Io in questo, scusami, io forse mi sono espresso male quando l'ho detto, perché io volevo parlare di una mia personalissima esperienza. Certo. Allora, io non nego, il rapporto omosessuale inteso comunione di anime può essere una cosa sublime, e ne parla per esempio il mio Virgilio con Eurialo e Niso. Dico semplicemente che è lontano dal mio modo di essere tutto qui. Cioè, tu hai vissuto il tuo essere omosessuale soprattutto come una cosa fortemente sessuale, carnale. Proprio il sesso, quello brutale, sì. Brutale. Sì, esatto, sì, proprio così. Brutale. Ma com'era quella storia di quel religioso? Non so se la racconti nel libro, di quel religioso che ti ha un po' molestato. Non la racconto, ma ne abbiamo già parlato. Lo so, però mi devi dare un nome, caro. Allora, no, il nome non lo posso fare. D'altra parte è identificabilissimo. Cioè? Allora, racconto un'altra volta la storia. Sì. Un ragazzo un po' disturbato che io conoscevo si confidava con me come a un padre, e allora mi racconto questa cosa, che era stato a battere nella villa comunale. Sì. E aveva trovato un individuo che gli aveva fatto un bocchino. Sì. Il venerdì sera. Sì. La domenica mattina questo va a messa, si va a fare la comunione e gli porge l'ostia consacrata a quello che aveva pigliato il cazzo in bocca il venerdì sera. Il ragazzo ne ebbe uno shock. Sì. Allora posso dire questo: si tratta di un monsignore molto repondu, molto alla moda, che adesso è stato chiamato a Roma. Sì, ma con che ruolo? Ecco, se te lo dico ti dico il nome. Vabbè, più o meno in che settore? In che settore? Non voglio avere una querela, questo è tutto. Ma in che settore? Non voglio farla avere neanche a te. Ma in che settore, scusa? È stato a Roma, ha un ruolo importante, che cos'è, un cardinale, che cos'è? No, per carità, però è direttore di un pontificio istituto. Beh, questo è già interessante, è direttore di un pontificio istituto, ma ha a che fare con la musica, dato che lo conosci magari? Non lo so. Non lo sai, direttore di un pontificio istituto. Beh, scateniamo la caccia noi, caro Paolo, scateniamo la caccia al gay, al monsignore gay, che poi in realtà non ha fatto niente di male, mica è un pedofilo questo qua, o no? No, scusami, a me, secondo me ha fatto qualcosa di malissimo. Perché? Perché se tu sei un sacerdote, sì, ti sei sposato con Cristo, non col cazzo del ragazzo che hai incontrato in villa. Vabbè, quello magari poi non ha più fatto nulla, non ha più succhiato nulla, dai. Vedi, è la ipocrisia che mi disturba. E poi guarda, credimi, questi che vivono così, sì, non si pongono nemmeno l'interrogativo se le loro pratiche, attenzione, se le loro pratiche, sì, dico pratiche, non la loro natura, sì. Quindi se le loro pratiche non siano in contrasto col comandamento divino, perché se io vado in villa stasera e mi faccio rompere il culo, io non ho giurato niente a Cristo, se non il fatto che gli andrò a chiedere perdono. Caro Paolo, dimmi. Ma si parla del fatto che vogliono punire i clienti delle prostitute, no? Qualcuno vuole punire i clienti delle prostitute in Italia, ma ti pare una cosa normale o no? Guarda, se non fosse da piangere farebbe ridere. Sai, quando, quando la morale entra nel diritto è un disastro. È un disastro, sì. Vabbè, senti Paolo, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, torniamo al sesso, che sai è una mia fissazione. No, per favore, basta, torniamo al mio libro. No, no, torniamo allora, al sesso, no, che dobbiamo... No, una cosa, guarda, sui cinema di Napoli, che è stupenda, questa cosa dei cinema di Napoli è meravigliosa, le tue prime esperienze nei cinema di Napoli, nei sotterranei dei cinema di Napoli. Allora, è molto semplice, io... In terza liceo si può dire che facessi Filone a scuola un giorno sì e un giorno no. Sì, Filone, cioè fai marinavi la scuola, sì. Sì, e allora con i miei compagni noi andavamo nella Galleria Umberto perché per passare la mattinata di Filone si andava a giocare a pallone o si andava lì. E allora in questi cinematografi che aprivano la mattina succedeva di tutto. E io nel mio libro ho fatto dei racconti molto divertenti di quello che succedeva. Per esempio, allora, che succedeva? Allora, ecco, questo lo voglio fare perché secondo me è una cosa che presta a una riflessione più profonda. Allora, il fatto in sé stesso è molto comico. Va a dire... andavano un sacco di ricchioni che li trovavano alle marchette. Sì. Allora, per andare con le marchette andavano nei cessi. C'erano tre vani cesso. La guardacessa era una vecchia che stava con la corona del rosario in mano e faceva salve regina, madre di misericordia, guagliò, la seconda è libera, puoi andare, vita, dolcezza e speranza nostra. Allora, questa è una cosa grottesca, veramente napoletana, però io penso che questa donna certamente sta in paradiso. Senti, ma tu sei andato, in che ruolo eri lì, quello che faceva le marchette o quello che andava con i marchettari? Andavo con i marchettari, puoi scherzare? Cioè, pagavi? Certo, questa domanda già me l'hai fatta, io già ti ho risposto che nel pagare c'è un grandissimo piacere. Addirittura. Viva il sesso! Ciao! A presto, ciao! Ciao. È un personaggio grandioso, Paolo Isotta. Grande intellettuale italiano, grandissimo, eh? Diciamolo subito. Poi uno che racconta queste cose in maniera così, però è uno dei più grandi intellettuali italiani. Sì, sì, certo. Dai, in bocca a lui queste cose assumono il profumo del profumo della viola, non esagerare, il profumo della margherita, parlava di bucchine, no, di altre ma vedi, cose. Detto dai, Paolo Isotta, il più grande critico musicale italiano. Ma sempre di bucchini si tratta. Ho capito, però sei critico musicale. Vabbè, però ho capito, sì, in bocca a lui, da certo, lui certo, assumono quel sapore. Perché tu non... sei snob? Perché tu sei snob? Sì. Beh, questo sì. Sei snob. Sì, dillo, io sono snob. Ma no, anche dillo. La Boldrini è snob. Senti che cosa ha scritto l'altro giorno. Non mi no, la Boldrini hai ragione, mi sta... incazzi, no, mi sta... a me mi sta molto antipatica. Allora, ho scritto a Sandrine Mazetier, vicepresidente dell'Assemblea Nazionale Francese, scrive no, la Boldrini. Infatti, per esprimere il mio apprezzamento, lunedì sera, mentre presiedeva la seduta, è stato infatti protagonista di un episodio che trovo molto significativo. Un deputato francese insisteva nel rivolgere la parola chiamandola il presidente anziché la presidente. Lei, dopo aver inutilmente richiesto più volte di essere chiamata in modo corretto, lo ha sanzionato. Il deputato in questione ci rimetterà 1378 euro. Leggevo male, sai che non ci vedo più. 1378 euro della sua indennità mensile. Ma perché l'hanno multato? No, ma è una cosa pazza. In Francia succede di tutti i colori. La misura disciplinare è stata possibile perché il rispetto di genere è citato e tutelato nel regolamento dell'Assemblea francese. Ma dai. Lo metto in evidenza, scrive la Boldrini, perché da noi l'uso scorretto del linguaggio, quello che declina solo al maschile alcuni ruoli di responsabilità rivestiti da donne, è questione che viene liquidata generalmente come una perdita di tempo, un'impuntatura tardo femminista, talvolta da deridere. Beh sì, è vero. Noi la interpretiamo in questo modo. Il rispetto di noi donne passa anche attraverso le parole giuste. Cioè, il presidente della Camera ha perso un po' di tempo per scrivere questa minchiata. Pazzesco. Questa minchiata. Per un poveraccio francese, devo dire, mi sarei ribellato. Andrei, mi incatenerei. 1378 euro di multa perché lo chiamava il presidente invece della presidente. Ma dove stiamo? In Francia, dai, purtroppo. Dai, su. Luigi da Roma, dai, Luigi. Buonasera, grazie della chiamata. Io telefono per questo argomento spinoso del signore che ha telefonato, che ha 70 anni e la toppa non la vede più, cosa non è così, e mi dispiace che non è così. In che senso? Che poi, se lo dice l'ascoltatore, parlerà per se stesso l'ascoltatore. No, lei quanti anni ha? Scusa, quella quanti anni ha? 78. E lei tromba ancora? Sì. Ma come fa a trombare a 78? Guarda, questa è una cosa pazzesca. 78 anni. C'è il tempo che lo spiego. Semplicemente bisogna innanzitutto farsi una cultura durante la vita, leggendo sia Ovidio che altri testi sulla seduzione, e avere un'esperienza, una cultura di come arrivare lì alla toppa, che adesso purtroppo oltretutto se la depilano tutti. No, mi scusi, ero un po' distratto perché mi hanno mandato un messaggio, purtroppo siamo alla fine della trasmissione. Allora, lei ha quanti anni ha, scusi Luigi? 78. A 78 anni lei ancora tromba allegramente, sì, giusto? Sì, quante volte a settimana? Questo dipende sempre dall'occasione, bisogna stare sempre a caccia e sempre in tiro, come dire. A caccia, ma questo è il numero uno. Scusi, la cardio aspirina, però almeno. Non si riesce. Ma prende qualcosina? Ma o no? Certo, dai. Allora, come dice Ovidio, se la puledra la trovi al campo che scuote la coda, e quindi è puledra nuova, l'aiutino non ci vuole. Poi certo, un po' di aiutino sì ci vuole. 78 anni. Come dice? No, niente, è il top. Tagliatemi questa frase e mandatemela in loop per due mesi. Cioè, se la puledra è nuova, perché anch'io la penso così. Se la puledra è nuova, non ci vuole nessun aiuto. Ho visto, citato. Ma è vero, se la puledra è nuova, non ci vuole nessun aiuto, è evidente, no? Se la puledra, come dire, già la frequenti, beh, amico mio, lì per fare della roba devi pensare. Io non so come fai tu, ma sono sicuro che anche tu non vuoi dirlo, d'accordo, non te lo faccio dire perché tu di cose private tu non parli, però sono sicuro che anche tu devi pensare. Di questi problemi, ragazzi miei, devi pensare. Devi pensare. Penso che è venerdì. Però scusa, stiamo andando via. Però voglio dire a Luigi. Con questo 78enne, fammelo dire completamente. Un porco. Ma anche anziano, ma anche un vecchio porco va aggiunto. Scusa, dai. Luigi, io ti devo lasciare, ma con tutto purtroppo. Rispetto per la c'ho sua la musichetta. Torna assolutamente lunedì. Roba incredibile. Le avventure sessuali di Luigi da Roma, 78 anni. Ciao. No, lei è un maiale perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Radio 24 è diventata radio porno, ma i suoi responsabili facci sentire queste cazzate qui alla sera. Era una bella trasmissione, lei l'ha rovinata. Voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tant'è vero che io non so quante gente ancora l'ascolta. Radio 24. La passione si sente.